Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Buonasera a tutti, buonasera da Maurizio Calzafara, buonasera da Rockway, buonasera da Michele Ottosoni in regia. Stasera, come sempre, con ogni mercoledì, sono molto contento, felice, che facciamo due ore di blues, come abbiamo detto prima in anteprima. Buonasera ai Surf Birds, ebbene così. Ciao, come buonasera pronuncia? A tutti, ciao. Ovvero sia, con chi? Francesco Greggio, chitarra. Riccardo Grosso, voce armonica. Un duo chitarra e armonica, il vero blues. Il blues si fa così, o quasi, cosa dici? Si fa così e anche non così, nel senso che questa sera lo facciamo così. Esattamente. Basta. Beh, allora, il progetto come nasce, come si sviluppa? Il progetto a due persone. Dimmi. È nato abbastanza casualmente. Noi ci conoscevamo, abbiamo fatto qualche jam insieme. Lui era di ritorno da un viaggio e di viaggi ha fatti tanti lui, esatto. Soprattutto negli Stati Uniti, e si dice bene, tiriamo su un progetto che ci faccia suonare molto, nel senso che sia dal punto di vista in due, sai, bisogna mi faccia suonare molto. Prima parlavamo fra noi due, prima che la trasmissione andava in diretta, mi faccia suonare molto. Per suonare è la cosa essenziale. Cosa dici? Suonare è la cosa essenziale. Voi siete musicisti professionisti, yes. Quindi dovete suonare in ogni caso per poter andare avanti, come si dice, la baracca. Esatto. E suonare molto, secondo me, in due versioni, nel senso, suonare sia dal punto di vista musicale, cioè siamo sempre in mutande in due, chiaramente, e sia dal punto di vista di attività live vera e propria, nel senso che in un anno c'è una media di un 160 date circa, quindi 160 non... date, sì. Quindi tantissime per un duo blues, tante. E che in Italia il blues è... aiuto vero? Aiuto. Aiuto. Aiuto. Sì, in Italia fa fatica, ci sono tante persone oggettivamente che si stanno dando da fare per cercare di farlo apparire sempre di più, apparire in senso positivo del termine. Qualcosa sta cambiando, ma è ancora aiuto. Aiuto, qualcosa sta cambiando. Sei d'accordo anche te quando lui dice aiuto? Ma sì, è difficile, perché in generale sia proporre musica comunque di un certo tipo, indipendente o anche musica originale, è molto difficile, perché in generale siamo immersi dalle cover, dai tributi, eccetera. E proporre magari delle cover rivisitate o addirittura musica indipendente scritta, insomma, di propria penna, chiaramente non è facile incontrare molto pubblico, sia dal punto di vista del pubblico degli addetti ai lavori, sia dal punto di vista del pubblico comune che mi può ascoltare in un locale, perché insomma sai com'è, non è facile, certo, ottenere sia gli ingaggi che l'attenzione delle persone che contano, ecco. Dobbiamo sottolineare una cosa, cari ascoltatori, che tutte le date vengono gestite da questi due personaggi, non hanno l'agenzia, vero Riccardo? Non c'è il management. Siamo noi i manager di noi stessi, da un punto di vista bene, perché c'è molta più immediatezza decisionale e libertà decisionale. Da un altro punto di vista, aiuto. Quante ore nella giornata, quante ore ci sono di solito per voi? Sul lavoro ho fatto i conti una volta, poi ho smesso, nel senso che sul lavoro, diciamo, dietro le quinte, quindi quello che in gergo si dice il booking, quindi fissare le date, organizzarci per gli spostamenti eccetera, 12-14 ore al giorno. Una cosa incredibile. E poi bisogna anche fare il disco, Riccardo. Bisogna fare il disco, bisogna studiare i pezzi, bisogna essere sempre alla ricerca di cose nuove, anche indipendentemente dallo show, proprio per crescere musicalmente a livello di singolo musicista, quindi poche ore dormite e tante sudate. Esattamente. Poi una cosa che tu hai detto in un'intervista: il nostro repertorio è un mix personale di brani che adoriamo, pescati dall'universo dell'American Roots. Sì, nel senso che... Dimmi, in che senso? Ne parlavamo anche forse prima. Esatto. Beh, io voglio che gli ascoltatori devono sapere i nostri discorsi. Perfetto. Allora, come ti dicevo prima, il discorso è questo. Andare a fare del blues canonico, per quanto ci piaccia, per quanto lo adoriamo, lo vediamo come una forzatura. Esattamente. Nel senso, essere sul palco piuttosto che in studio o piuttosto che a casa a suonare, funziona meglio se suoni e quindi dici delle cose che senti tue. Parlare di uno zio, un nonno che lavorava in un campo di cotone è molto dura. Per cui abbiamo preso dei brani che possano significare qualcosa sia per uno che vive a New Orleans come per uno che vive a San Donà di Piave, a Padova o Conegliano. Certamente. Sentiamo allora questi brani che avete scelto, queste cover rivisitate da voi, riproposte, riarrangiate, ricreate, possiamo dire anche questo, in qualche momento? Sì, nel senso che in alcuni brani abbiamo proprio preso e detto ok, il brano va in quella direzione, noi lo sentiamo di là, proviamo. Che traccia abbiamo scelto per iniziare? Ti ricordi la traccia numero 2, mi pare? Sì, che è Baltimore Orion. È un pezzo suonato da George Harrison. Però anticamente non era proprio di George Harrison, era di un compositore americano, Carmichael, famoso. Per lui, giustamente, l'ha ripreso. Secondo lei, i critici, la miglior versione in assoluto di questo pezzo l'ha scritta George Harrison. Anche se giustamente Francesco parlava di John Mellencamp, altro musicista molto importante in America, che ha fatto un po' di tutto, non solo del blues, un po' meno, ha fatto molto rock. Ha fatto molto rock, ha dei dischi molto belli, bellissimi. Un po' meno. Altri che ci si chiede, forse non reggono nella sua discografia al confronto con gli altri. Certo, dobbiamo ricordare che è stato lanciato da Madonna. Sì. La prima etichetta era di Madonna. C'è poco da fare. Sentiamo il pezzo vostro, ok? Yes. Around with that big guy until his angel's wings. Forgiving it easy, it's a woman I like. Now and then could happen to this thing. Send you back home, home ain't home, without verbal end, how she could sing. Make a lonely man happy. Oh, Baltimore, oh, Rio. Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Riccardo, diciamo il titolo del pezzo che non abbiamo detto, cioè lo ripetiamo. Sì, Baltimore Oriole. Ecco, come mai, Francesco, avete scelto un pezzo simile ricordandovi la versione che ha fatto George Harrison in un suo album da solista dopo i Beatles, post Beatles? Ma siamo... mi aveva colpito molto sinceramente la versione di Mellencamp. Ah, perché... e non di Harrison allora? No, esatto, perché aveva proprio un bel mood, era molto, molto smooth, molto soft come idea. E da là abbiamo detto va bene, proviamo a farla prima in due in acustico, poi nella versione insomma del disco abbiamo cercato di riarrangiarla un po' con un po' di percussione eccetera. Devo dire che mi sono innamorato del pezzo dalla versione di Mellencamp, non da quella di Harrison. Poi esatto. Giustamente diceva Riccardo che Harrison dovrebbe aver comprato i diritti d'autore di questo pezzo, quindi si firma Harrison praticamente. Anche sì, se praticamente esatto. Non è lui il creatore vero e proprio del pezzo, però quando si comprano i diritti d'autore diventi assolutamente proprietario del pezzo stesso. Come lo suonate dal vivo questo qua? Un po' più di grinta o uguale, quasi uguale al disco? Abbastanza simile, chiaramente ne viene a perdere un po' l'arrangiamento perché ci sono alcune percussioni, ci sono altre cose. Che suonate tutto voi, eh? Sì, esatto. Anche le percussioni. Sì, sì, sì. Vero? Chiaramente sovraincise. Sì, sì, chiaramente sovraincise, però abbiamo suonato tutto noi, insomma. Riccardo suona l'armonica, e te cosa suoni? Oltre alla chitarra. Chitarra e chiaramente lì, va bene, nel disco mi sono un po' arrangiato a suonare qualche percussione, ma in realtà sì, sono chitarrista. Sì, ecco. Esattamente, sei un chitarrista. Esatto. Benissimo, 22 e 21, adesso come sempre dobbiamo aprire la finestra. Prima l'abbiamo aperta la finestra sentendo un pezzo da disco, adesso l'apriamo suonando chiaramente. Certo. Che cosa, Riccardo e Francesco? Tigerman. Yeah. È un pezzo, in sostanza, questo è davvero un vecchio blues che... ha riproposto anche Elvis Presley dal vivo. Bene. Non ha mai registrato questo pezzo in studio. Come mai secondo te? Ne aveva registrati ben altri. Ne aveva registrati a centinaia, tantissimi. Che forse questo non gli serviva. Elvis era un mostro. Lui sì, l'ha rifatto in versione molto più rock, molto più energica. Abbiamo pensato di riproporla come nell'originale, come agli inizi. E suona più o meno in così. Questo modo qua. Ok. I'm the king of the jungle, call me the Tiger Man. I'm the king of the jungle, they call me the Tiger Man. When you cross my path, you got your whole life in your hands. I get up on the mountain, I call my baguette back. Get up on the morning, I call my baguette back. The baguette comes running and I'm hound dog stay way back. Darkness is falling, that's the time I prowl around. The darkness is falling. Yeah, there's a time I prowl around. I'm gonna raise your hound dog and let your pet cat come in town. I'm the king of the jungle. They call me the Tiger Man. The king of the jungle. Call me the Tiger Man. When you cross my path, you got your whole life in your hands. Let's go home, buddy. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. E fa bene respirare il blues un po' di, di tempo. Una volta ogni tanto fa molto bene, soprattutto in radio fa molto bene, anche bene i nostri ascoltatori. Non si ascolta mica spesso. No, si ascolta poco il blues, è vero. Forse, non so, il blues è il padre o la madre, possiamo dire, di tutti, tantissimi pezzi. C'è poco a dire. Se pensiamo che... Che i Deep Purple fanno blues. Eh sì, è vero, hai ragione. I Led Zeppelin, se li spostiamo sul pianoforte, fanno blues, per cui è tutto da là. È parte tutto da là, è vero. Sì, Francesco stava provando la chitarra, è giusto. Dal vivo si deve provare la chitarra. Fa parte del gioco. Fa parte del gioco, esattamente. Ho letto però che nelle vostre esibizioni spiegate alla gente. Parlate, raccontate. Bello, sì. Come lo fate? Con parole dirette e semplici, forse anche troppo dirette a volte. Sì, in che senso, Riccardo? Nel senso che c'è un pezzo, l'abbiamo anche inciso su disco, e si chiama Ma Oklahoma Home, sì, di Pete Seeger. Un pezzo famosissimo in America, sì. E non soltanto in America, ha valicato i confini. Ha valicato i confini grazie anche a Springsteen. Esattamente, grazie al boss. Grazie al mitico boss. E in sostanza parla di questo tizio che aveva una simpatica fattoria, un cane, il bestiame, era tutto quanto a posto, aveva addirittura trovato la moglie e arriva questo uragano e gli porta via tutto. L'uragano può essere visto sia da un punto di vista... Sì. Naturale, di evento esattamente. Sia da un punto di vista di evento non sociale. Potete giocare su questo. Sì, apolitici sì, in modo totale, sia chiaro, però sai, uno racconta in modo diretto quello che bene o male sente, vive, e che la gente sente e vive. Certo. I brani, appunto, tornando sempre poi alla musica, che è il nocciolo della questione, sono anche abbastanza attuali, nonostante magari siano scritti negli anni 40 o 50, certo, americani, però... Il momento della depressione soprattutto. Esatto, contestualizzati poi ad oggi a una realtà anche di vissuta da chi come noi ha 30 anni, dici, quella volta hanno visto lungo. Sia nel bene che nel male, capiamoci. Tu hai citato Pete Seeger, che era un ricercatore, è ancora vivo e vecchio, 92 anni, ancora sulla breccia. Sì. Recentemente è andato a fare la dimostrazione a New York, poi qualche mese fa. E in Italia se lo ricordano tutti per dei pezzi, The Hammer, il pezzo che è inciso Rita Pavone, ti ricordi? Sì, datemi un martello. O quel pezzo che poi ha ripreso John Baez, famosissimo. Sì, poi lui ha ripreso e l'ha reso famoso lui, per esempio Guantanamera. Esattamente, che non era suo. E poi un altro pezzo meraviglioso fatto dai Byrds, Turn. Che lui ha ripreso da un pezzo biblico che lui ha rifatto, e i Byrds, Roger McGuinn, David Crosby e company hanno rimesso su, hanno rifatto in chiave meravigliosa. Assolutamente sì. Quindi Pete Seeger, un musicista straordinario. assolutamente, che non è blues però, francamente è un obo, possiamo dire così. Sì, è un quello che potrebbe essere definito un songwriter. È un songwriter, ha detto una cosa giusta. Poi però succede che te lo trovi su dischi dove suona e canta lui, che non c'entrano nulla col songwriting, e capisci, sì, che in realtà è un musicista a tutto tondo, perché me lo sono trovato su un doppio disco della Preservation Hall Jazz Band. Che non c'entra niente con il blues, assolutamente. O col songwriting. Esattamente. E lui è lì e suona da paura con questa band di jazz di New Orleans, quindi è proprio un musicistone. Anche se dicevano nelle note, questo era un pezzo scritto da un certo Cunningham e dal suo fratello Bill Cunningham. Ancora si parla degli anni 60, fine anni 60. Probabilmente è un pezzo antico che loro hanno ripreso e hanno rimesso a posto. Sì. E l'incisione di Pizzia è del 67, quindi un po' di anni fa. Sì, è un bel nel senso di, musicalmente di per 66, sì, nel musicalmente è tantissimo tempo però è sempre attuale, è sempre attuale. C'è poco da fare. Si è fatto un disco in omaggio suo, e quindi vuol dire, sì, che voglio dire, The Boss non si scomoda, è un'icona, così è un'icona, esatto, è un'icona. Ok, 22:31, vogliamo suonare un altro pezzo? Io sì, io sarei molto contento se suonate un altro pezzo, ma sì, perché no, che cosa, dai. Up the line. Ah, okay. Up the line, che è un pezzo di Jacob. Sì. E dopo spieghiamo chi era suo Jacob. Perfetto. Ok. You used to love me. You said it was your heart desire. And now you acting crazy, trying to drown my love away. I'm cutting out. Girl, I'm moving up the line. And if I stay another day, you're going to drive me out of my mind. Took me from my home, I was nothing but a child. You made me all these promises, just a line and jive. I'm coming out. Girl, I'm moving up the line. And if I stay another day, you're going to drop me out of my mind. Train is at the station, I'm all back up to go. There ain't no use to worrying, I'm gonna be back no more. I'm coming out. Got to move on up the line. And if I stay another day, you're going to drop me out of my mind. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. È un pezzo molto bello questo qua, e giustamente avete scelto come inizio del disco. Sì. Che molto prende immediatamente. Sì. Beh, ricordiamo chi era Jacob, era un armonicista, era un amico di Muddy Waters, era il vocalist di Muddy Waters. Il primo armonicista della Muddy Waters Band. Esattamente. Il primo in assoluto. È stato anche il primo, si dice, e sembra praticamente confermato, anche se la paternità di questa idea in quegli anni era abbastanza discussa. È stato il primo ad attaccare un microfono di quelli da radio di una volta, per capirci quelli a fanale di bicicletta, certo, ad un ampli valvolare per chitarra, per l'esigenza di farsi sentire nelle band elettriche, creando un suono saturo, distorto, che poi ha settato proprio i parametri per il suono dell'armonica di Chicago. Perfetto, quindi un musicista di grandissimo talento. Sì, definito il Charlie Parker dell'armonica, perché mastica un po' di jazz, sì, sa chi è Charlie Parker, sassofonista straordinario. Poi mi pare che c'è una frase che ho letto, ma intanto ha influenzato anche i Rolling Stones. Molto i Rolling Stones. E c'è una frase di questo genere: Walter ha aiutato a riscrivere la storia del blues per molte delle impostazioni e modelli su di lui e la sua band, The Jukes, famosissimo. Sì, Jukes, dal pezzo che lo ha portato alla fama, che si intitolava proprio Juke, e rimane secondo me un banco prova per gli armonicisti, perché parlavo con un bravissimo armonicista che conosco, Willy Mazzer, che mi ha detto, quando ero ancora piccolino, mi fa: guarda che imparare Juke e capire quello che fa Little Walter su Juke, tu quando sei arrivato alla fine di quei 2 minuti e poco più hai imparato come si suona l'armonica blues. Perfetto, basta quello. Perfetto. E morì abbastanza giovane, il 15 febbraio 68, ma spesso capita spesso volentieri che questi musicisti blues hanno delle morti violente. Uno morto a 37 anni perché aveva fatto, a causa delle ferite alla testa, aveva fatto praticamente un divario con qualcuno. Sì, una rissa. Una rissa. Erano anni abbastanza strani, no? Un po' difficili, sì. Sì, soprattutto per la gente di colore, nel senso che c'era proprio il club per bianchi, il club per neri, e quindi già si capiva la tensione di quegli anni lì, insomma. Però era un grande che ha lasciato la storia giusta del blues. Sì, sì, come sì, tu sì, giustamente hai detto, molta gente per imparare l'armonica, e suonare in una certa maniera, devono sentire lui. Sì, è uno, secondo me, degli ascolti da fare. Esattamente, esattamente. Quindi l'avete scelto anche per quello, Francesco? Sì, sì, sì. Beh, anche per questo. Esatto, anche mi hai preso alla sprovvista. Innanzitutto, abbiamo detto già prima, ha un bel inizio, apre bene il disco, c'è poco da fare. Sì. Si fa muovere la gente, fa capire che il blues non è solamente in determinate situazioni, è un blues che si apre a determinati orizzonti. Sì, che ne hanno fatto dei Rolling Stone. Rolling Stone, ecco, un gruppo blues. Assolutamente, all'inizio blues facevano solo cover. Assolutamente sì, assolutamente sì. Il suo nome, insomma, è Rolling Stone. Rolling Stone è un pezzo di Muddy Waters, e quindi torniamo sempre lì. Siamo sempre nella stessa cosa. Sì. È una cosa positiva. Assolutamente, assolutamente sì. Ok, 22:37, sentiamo un pezzo da disco, adesso vi facciamo riposare. Ti ricordi la traccia che hai scelto? Sì e no, nel senso che ne abbiamo scelte 2-3. Numero 5, numero 5. Chocolate Jesus. Sentiamo. Well, I don't go to church on Sunday. I don't know my knees to pray. Memorize the book of the Bible. I got my own special way. I know Jesus, you loves me. Maybe just a little bit more. I fall down on my knees every Sunday. Israelis candy store. Well, I've got to be chocolate Jesus, good enough for me. It's got to be chocolate Jesus, it's good enough for me. Don't want no more joy. The rain of the battle, sweet above 40's boy. Well, it's the only thing that can make me better than a cup of gold. getting rough. There's whiskey in the jam. He's best to rub you, save rapping's elephant. Flows like a big muddy, but that's okay. The moon over ice cream for a nice buffet. And he's got to be chocolate Jesus. Good enough for me. He's got to be chocolate. Makes me feel so good inside. It's got to be chocolate Jesus. It keeps me satisfied. Dall'interpretazione, dal genio di John Waits, una reinterpretazione di Francesco e di Riccardo da Mule Variation. Questo è un disco molto epocale, qualcuno dice, molto importante nella discografia di Tom Waits. Perché Tom Waits? Perché ha il blues nel sangue, ma anche quella voce molto particolare. Ancora adesso, ancora peggio adesso. Sì, beh, adesso ho sentito l'ultimo. È un bel disco, però. Lui. È un discone e lui è sempre più... Sì, sempre proprio rocca, quasi alla fine della scala. Esatto. Perché Tom Waits? Perché in realtà si trova molto blues anche in Tom Waits. Certamente. Si passa dal primo periodo, appunto, che era forse più jazzy, più da jazz club con pianoforte, contrabbasso e batteria. Con molto fumo. Sì, proprio fumo. Una nuvola di fumo. Ti dà proprio l'idea del fumo e del bicchiere di whisky appoggiato da qualche parte, fino a poi evolversi a qualsiasi cosa suonata, però... in maniera sua, cioè c'è proprio il timbro, il marchio di fabbrica e da là non si scappa. È vero, c'è il marchio di fabbrica. Ci sono comunque, secondo me, tantissimi pezzi blues di Tom Waits che non sembra siano dei blues, suonabilissimi, e abbiamo detto perché mettiamo no? Questo. Prendiamo questo. È un... Ne avete messo due però nell'album. Sì. Di cui uno era una colonna sonora di un film. Sì, Denman Walking, che poi ha inserito in Orphans, sì, il triplo album esattamente. Esatto. Le rarità di Tom Waits. Sì, che un'intervista è stato fantastico perché gli hanno chiesto come mai tre dischi. Perché quando ne butto fuori uno la gente ne vuole due. Quando ne butto fuori due la gente vuole qualcosa in più. Allora questa volta ho accontentato tutti perché ha fatto proprio i dischi tematici. È vero, hai perfettamente ragione. Diciamo che gli ultimi dischi di Tom Waits sono stati sdoganati anche in Italia. È avuto... adesso la Epitaph, l'etichetta ultima, sì, che ha avuto un grande successo anche in Italia. Tom Waits non è uno del grande successo, però lentamente non è assolutamente, non è commerciale Tom Waits, però ha determinate cose anche nell'ultimo disco che che può prendere sì. determinati pezzi molto interessanti. Sì, il mio ascolto di Tom Waits è stato strano. Sì. All'inizio lo odiavo, cioè proprio oddio. Era insopportabile. Aiuto. La seconda volta è stato però forse. E la terza volta amore, è un genio, cioè proprio riesce a sentire i vari strati di quello che compone. E te, Francesco, come sei entrato nell'ambito di Tom Waits? Ma diciamo mi appassiona molto come suona il suo chitarrista. Chi è il chitarrista di Waits? Mark Ribot. Detto uno semplice, uno che non ha mai suonato con nessuno. Esatto. Poi chiaramente lui è un personaggio insomma molto carismatico, è uno di quelli che insomma dei più importanti nella storia della musica. Come si fa a dire qualcosa su Tom Waits? Mm-hmm. È come dire qualcosa sui Beatles, insomma, certo. Nel senso. Quindi così, dal punto di vista chitarristico, le pazzie di Ribot insomma mi piacciono molto. Le pazzie, ha detto una cosa giusta. Ho cercato un po' di tirar fuori quel Ribot che, tra virgolette, che c'è dentro di te forse. Sì dai, sto scherzando comunque. Un po' in quello stile lì, lui è un mischiotto tra quel jazz, un po' il surf, sì, un po' di tutto. Un po' blues. E l'idea un po' fumosa appunto del pezzo abbiamo cercato di riproporla con quelle chitarre un po' riverberate. Esatto, chitarre riverberate. E io l'ho amato, mi ha colpito immediatamente Tom Waits per un disco, Blue Valentine. Quello lo trovo un disco splendido, molto fumoso, ma molto leggero anche, avvolgente, delicato in alcuni momenti. Sì, credo sia proprio tipico suo, cioè ha dei momenti aggressivi che quasi ti spaventa, comparato a Marilyn Manson, nel senso che lo stavo ascoltando con un amico che mi faceva impazzire. No, devi sentirti Marilyn Manson ed ascolta, ti piace perché? Perché è cattivo. Senti questo, toglilo, è troppo cattivo. Vedi? ha poi delle ballate struggenti che dici, no, come ha fatto a creare una storia così, che è in equilibrio perfetto sia di sonorità che di parole. È un genio. È un genio anche la classifica, visto che Rod Stewart ha ripreso un suo pezzo e ha fatto 1 milione di copie. Sì. Ma non so, tanti altri hanno ripreso quel famoso pezzo di Tom Waits. Sì, e poi ho scoperto che in realtà c'è un sottomondo, tra virgolette, sottomondo rispetto a Tom Waits, quindi tutto il mondo è un sottomondo rispetto a Tom Waits, però di musicisti che hanno proprio registrato degli album in tributo a Tom Waits. Ce n'è uno stupendo di un'artista svizzera che si chiama Claudia Bettinaglio, che ha arrangiato tutto in chiave ancora più blues e con la sta vociona bella, possente, piena, che è uno dei miei album preferiti in onore di, e un altro di John Hammond che si chiama Wicked Green, dove c'è la band di Tom Waits, in pratica prodotto da Tom Waits, e Tom Waits che suona la seconda chitarra mentre John Hammond suona la chitarra solista e canta con Charlie Musselwhite all'armonica, Larry Taylor al contrabbasso e Stephen Hodge alla batteria. Quindi una dream band. Esattamente. Hai citato l'armonicista di Tom Waits, Charlie Musselwhite. Sì. Per strane coincidenze ci siamo conosciuti e siamo entrati in simpatia proprio perché sciolti, in tranquillità, nel senso che io l'ho conosciuto a Vienna ad un suo concerto la primissima volta, e quando gli ho detto guarda mi sono messo a piangere a sentirti suonare, mi fa l'armonica era troppo alta, ti dava fastidio, per cui, quindi già proprio è andata in questo senso la giornata assoluta. E da lì c'è appunto questa amicizia e ci vediamo poco perché lui sta in California, io sto in Italia, ci sentiamo tantissimo via mail, via telefono. Che dire, è un gentleman, proprio quelli veri. Potrebbe essere quello che dice, ah tu sei armonicista, vieni da Conegliano, chi se ne frega. Invece è, tu sei armonicista, vieni da Conegliano, sei in California, devi venire a casa mia e stare con me. E cosa ne pensi dell'ampli che ho comprato? Cioè è proprio l'inversione dei ruoli. Questo succede solo negli Stati Uniti, però, o succede in qualche altra parte, un po' meno in Italia. Ma io credo che non succeda in Italia e succeda nel resto del mondo. Ecco, facciamo così. Ok, 22:49, sentiamo un altro pezzo da disco. Ti ricordi la traccia che abbiamo scelto? Allora, potrebbe essere Six Strings Down, la numero 7. Numero 7, la sentiamo. Jimmy Lee Vaughan, texano Dallas, assolutamente texano, ha dedicato questo pezzo al suo fratello, al grande fratello. Esatto, è un pezzo che ha scritto dopo la morte, insomma, chiaramente inaspettata, del fratello in un incidente in elicottero. In elicottero, sì. Nel 1990. È un pezzo che ci aveva colpito molto perché è in un disco solista del fratello. Il fratello ha uno stile ben diverso, insomma, da quello di Stevie Ray, molto meno eroico, esatto, molto meno guitar hero. Però il pezzo è veramente bellissimo, anche l'arrangiamento che c'è in questo disco qui, è lui solo con la chitarra acustica e una percussione, c'è un bellissimo coro che viene di lontananza, molto scuro, molto afro. Da lì appunto ci ha colpito molto l'interpretazione del pezzo in sé, abbiamo detto rifacciamolo, però cambiamo completamente, lo facciamo in chiave elettrica. Ecco, esattamente. Io sono chiaramente un grande fan di Stevie Ray e nel frattempo insomma mi ho imparato a apprezzare anche molto i Fabulous Thunderbirds, che era il gruppo di Jimmy, di Jimmy Vaughan, e così insomma abbiamo deciso di rifarla la nostra versione, molto diversa dall'originale perché l'atmosfera è diversa, però insomma è stato un bel esperimento. No, è stato un'ottima scelta. Diceva giustamente Riccardo che quando Steve cominciava a farsi vedere, il fratello già aveva un gruppo tosto importante. Assolutamente. Decisione in America molto importante. Sì, tra i primi ingaggi, tornando indietro un attimino, backing band di Muddy Waters quando ha fatto il tour in Texas, quindi voglio dire a 23-24 anni. Sono cose che fanno male, nel senso che quando le sai che hai già superato i 23-24 anni, cioè questi più giovani di noi all'epoca hanno fatto da backup band di Muddy Waters, aia. Ma quanti ce ne sono negli Stati Uniti di questo livello secondo te, visto che sei stato per 6 mesi l'anno scorso? No, allora ho fatto in realtà tre tappe in 3 anni, nel senso il primo anno è stato un tour de force, nel senso 11 quindi... giorni tra New Orleans, California, San Francisco e St. Louis. Suonare sempre, partecipato allo SPA, che è la convention annuale degli armonicisti di tutti gli Stati Uniti, con Charlie. Certo. E l'anno dopo ho detto devo ritornare un attimo ad annusare l'area di New Orleans, perché forse qua qualcosa c'è. Sono tornato l'anno successivo, quindi l'anno scorso, e mi sono fermato il massimo che potevo, 3 mesi. E sì, quindi l'aria buona. E cioè, che aria si respira a New Orleans? Al di là che tu sei armonicista, musica. Per capire, noi pensiamo a New Orleans come la città delle band che suonano i funerali col Second Line, che esiste ancora, c'è e è tradizione. Però immaginiamo una band del genere, quindi una brass band, tutti ottoni, che sul palco hanno 4 solisti di fronte che suonano o il sax o la tromba, e poi su ritmi funk, suonati senza basso ma col susafono e con tutta la band dietro, cantano hip hop. Questo è quello che succede adesso. Incredibile. Giuro che la prima volta che li ho visti ho detto ok, siamo indietro in Europa di millenni. Non perché non possiamo farlo, perché potremmo farlo tranquillamente, è che forse tante volte abbiamo un po' troppo timore di sperimentare, andare verso altre cose che lì evidentemente fanno con molta più scioltezza e molte meno forse paranoie, diciamo, no? Nel senso ok, non hanno tante barriere, assolutamente. No, sono aperti a qualsiasi influenza. Esattamente, questa è una cosa molto positiva. E dicevi a microfono spento che vorresti portare anche Francesco. Sì, stiamo lavorando per tornarci durante il periodo del Jazz Fest, che è un festival che accade a New Orleans in 2 weekend, verso fine aprile, primi di maggio, quindi andare via 15 giorni in modo tale da suonare lì New Orleans e dintorni e beccarci anche questo Jazz Fest. È un festival enorme, ci sono 10 palchi, un concerto ogni ora e mezza per palco, ma ti trovi su un palco i Pearl Jam, sull'altro B.B. King e su un altro Jeff Beck in contemporanea, e non sai dove andare perché poi ti fermi a metà e scopri che c'è qualcosa che ti piace ancora di più ma non hai mai sentito. Una cosa incredibile. Sì, io ero lì l'anno scorso e non potevo crederci, cioè ho detto no, ok, questo è una cosa che sto sognando, non è davvero possibile. È un'altra dimensione. Sono le 22:59, è quasi l'ora del giochetto, però prima di fare sentire questo giochetto, di parlare di questo giochetto, sentiamo un pezzo vostro dal vivo. Che cosa? Facciamo sì, un pezzo di J.J. Cale. Ah, bello, J.J. Cale, bellissimo. Call Me The Breeze. Ok, grande pezzo da un album molto importante, significativo, da Naturally, mi pare. Mi sembra di sì. Un album che ha sdoganato, è stato sdoganato da Eric Clapton, siamo d'accordo, che pezzo famosissimo. Però quest'album ha avuto grande successo. Sì, basti pensare che questo pezzo in particolare è stato rifatto anche dai Lynyrd Skynyrd, esattamente, quelli di Sweet Home Alabama. Esattamente. Okay, sentiamo adesso. Ok. I keep blowing down the road. You know they call me the breeze. Well, I keep blowing down the road. I ain't got me nobody. Well, I don't carry me no heavy load. No change in the weather. No change in me. There ain't no change in the weather. There ain't no change in me. I'm hiding from nobody. Nobody's hiding from me. And that's the way it's supposed to be. I got a green light, baby. I got a key moon on. I got a green light, baby. I gotta keep moving on. I may go up to California, back down in Louisiana, I don't know. But if I shake the Georgia peaches, it makes me feel right at home. Shake the Georgia peaches, it makes me feel right at home. I don't know me no woman, so I can't stay in Georgia alone. I keep blowing down the road. You know they call me the breeze. Well, I keep blowing down the road. I ain't got me nobody. Well, I don't carry me no heavy load. Miss the breeze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Bravissimi, bisogna dire bravissimi. Una versione strepitosa, cioè emozionante, vivace, elettrica, non diciamo elettrica, però come fosse elettrica di un pezzo di Gigi Cale, molto bello, bello, interessante, con molta grinta, Riccardo e Francesco. Grazie. Gigi Cale è un grandissimo artista, un musicista straordinario, ha fatto delle cose meravigliose. È stato, come abbiamo detto, sdoganato da Eric Clapton, sì, quella cosa, Cocaine, un successone mondiale, ma non ha scritto solo questo, ha scritto tante altre. credo che bisogna assolutamente avere la discografia di JJ Cale e andare a pescare, perché ci sono brani straordinari e pensare a lui solo per Cocaine o per Call Me The Breeze, esatto, come in questo caso, che sono pezzi fantastici, sì, sì, però è limitativo. Dietro c'è tanta bella scrittura che va apprezzata. Leggevo che questo pezzo è stato registrato con un registratore Ampex traccia 4 con la drum machine Tone Ace e un amplificatore Fender Twin. E poi microfonato all'epoca l'ha scritto lui, cioè, all'epoca era avantissimo. Esatto, l'ha scritto lui. Bene, adesso è il momento giusto per fare il nostro giretto sui dischi da portare su un'isola deserta. Sono le 23.05, assolutamente in diretta a Rock Wave assieme a Francesco e Riccardo stasera. Con cosa cominciamo, Riccardo? Beh, allora abbiamo nominato Tom Waits. Esatto. Io porterei Big Time, che è un disco registrato dal vivo. Esattamente. Credo fosse l'88. Sì, l'88, sì. E ci sono versioni stupende di brani che ha inciso in studio e fatte in maniera totalmente diversa rispetto a come uno si aspetta. Quindi questo è un disco, secondo me, da avere e da ascoltare. Mentre poi, sta passando Roberto e sta predisponendo le telecamere. Bene. Okay. Poi altri tre, non è mai facile. Uscendo un po' dal contesto, mi viene in mente The Tiki Bar Is Open di John Hiatt. Ah, come mai hai scelto John Hiatt? Perché è un compositore, mai purtroppo. È un compositore straordinario, ha un modo di scrivere i testi che è diretto e asciutto, ma così asciutto che poi diventa pieno a livello contestuale, cioè una cosa fotonica. Io ricordo Bring the Family, sì, disco meraviglioso, ha vinto un sacco di premi. Poi c'è un live fantastico che è il live John Hiatt Comes Alive at the Budokan, cioè arriva vivo al Budokan, che era un teatro dove facevano arti marziali in Giappone, quindi sì, pazzesco. Comunque The Tiki Bar Is Open. Poi mentre parlavamo mi era venuto in mente, ma l'autore non il disco che vorrei. Beh, ok, uno qualsiasi di Little Walter, visto che stavamo parlando di lui. E poi andiamo in una direzione diversa, ma non troppo. E questo è un gruppo che secondo me è palestra per tutti quelli che vogliono scrivere canzoni. I Creedence Clearwater Revival. E che voi citate, che voi fate dal vivo, fate qualcosa di Creedence? Abbiamo un brano che lo suoniamo solo quando è giusto il momento, che è Bad Moon Rising, a proposito di 2012. Lo sai che è stato inciso anche in italiano dagli Stormy Six? No, non lo sapevo. Sì, Bad Moon Rising è stato inciso in italiano dagli Stormy Six. Dai. E il buon Claudio Rocchi ha fatto il testo in italiano. All'epoca, si parla dell'epoca. E lui diceva, sono stato molto fortunato, diceva in un'intervista tempo fa, perché io sono riuscito a tradurre. E ho preso un sacco di soldi, perché all'epoca la traduzione dei pezzi, c'era un altro in Italia che è stato fortunato a prendere un sacco di soldi, era Piccarreta, che ha tradotto Obladi Oblada dei Beatles. Pensa. E i diritti erano tutti suoi, la traduzione era sua, una volta si usava così. Se, forse anche Mogol ha fatto qualcosa del genere. Ne ha fatte tantissime traduzioni, però quei due là, cioè, hanno fatto proprio attento, Bad Moon Rise, tradotto degli Stormy Six. All'epoca in cui Claudio Rocchi militava, poi Sammy Six ha avuto un altro percorso e Rocco se n'è andato per altri percorsi. Però all'epoca c'era Claudio Rocchi in Sammy Six. Dai. Sì. Ecco, grazie della è news. Perché... in mente in questo... Ecco, quindi qualsiasi disco dei Creedence va portato nell'isola deserta. Esattamente. Francesco, cosa porti nell'isola deserta? Allora, io proporrò delle cose un pochino più chitarristiche, però... che hanno il loro perché. Allora, innanzitutto, in assoluto, Axis Boulder's Love di Hendrix. Ah, hai detto un disco da niente? Come mai perché quello è il... Allora, io apprezzo una cosa di Hendrix, sai, quando si pensa a Hendrix si pensa a lui che brucia la chitarra live a Monterey, sì, o cose di questo tipo. Invece la cosa più bella di Hendrix era proprio il suo modo di comporre le canzoni, ok? E di suonare la chitarra in maniera velata sulle ballate, e quel disco è pieno di ballate stupende. Io ricordo Castle Meadow Sand, Little Wing, Little Wing, esatto, quanta infatti, gente l'ha fatta, esatto. Un sacco. Io ricordo anche la versione, qualcuno ha detto è stato reinventato quando ha rifatto Only Long the Watchtower. Sì, lo stesso Dylan, ha detto aspetta, è meglio la sua. Esatto, esatto, è stata proprio reinventata. Esatto. Ok, poi Di sicuro qualcosa di B.B. King, perché a parte le ultime cose che possono sembrare un po' commerciali, le vecchie cose proprio secondo me testimoniano di come della vera essenza del blues, di lui che è un uomo incredibile. Io invento un disco stupendo che è Live at the Regal, sì. Che è veramente meraviglioso, sia per il modo che ha lui di suonare la chitarra che di cantare. Poi un altro gruppo che mi ha sempre appassionato molto sono gli Allman Brothers, una band southern rock. Hai detto un altro gruppetto da niente. E lì penso a un altro live. Il film. Esatto, proprio quello dove c'è la versione insomma di Stormy Monday da 15 minuti. Esattamente, che non finiva mai, ma che non doveva finire mai. Esatto, poi lì chiaramente la bellezza di quella band è il modo anche di arrangiare, di dialogare, insomma una delle prime jam band, eccetera. E poi un amore che ho sempre avuto per il reggae, e porterei di sicuro qualunque cosa insomma di Bob Marley. Certo, qualsiasi disco suo. Non perché è classico, ma perché proprio tu senti una nota sua, che sia di voce o strumentistica, insomma è proprio un marchio di fatica. È lui, è poco. Ci sono tanti e poi altri. Mi mette, sì, sarà un luogo comune, ma il reggae mi mette molta gioia. Chiaramente sì. Ok, 15 siamo verso, non dico, abbiamo ancora parecchio tempo per, fino alle 24. Adesso sentiamo un pezzo da disco. Che traccia, ti ricordi che traccia hai scelto? Era la aspetta che non ci vedo. Abbiamo la lista è qua. La 8. La 8, la 8. Questa è interessante. Parliamo dopo, la sentiamo, ok? Friends. on God's golden shore. Blue Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, stiamo piacevolmente conversando con Francesco e Riccardo, The Surf Birds, il gruppo armonica e chitarra. Mm-hmm. E parliamo di questo pezzo, Man of Constant Sorrow, famoso perché? Perché tutti l'abbiamo sentito nel film Fratello dove sei. Sì. Però un pezzo scritto da un certo Dick Barnett, che dicono che fosse un violinista cieco, 1800, cioè alla fine del secolo del 1800. All'inizio del Novecento. I primi, tra virgolette, blues, no? Anche se è più appunto un folk tradition. Esattamente. Che poi abbiamo ripreso e suonato ovviamente in maniera più distante rispetto a quella del film Fratello dove sei, perché un po' per scelta, un po' perché voglio dire, è tanto bella la versione del film, certo, fatta da due musicistoni fantastici, e andare a riproporre una cosa del genere uguale appunto non aveva gran senso. E quindi poi è arrivato Francesco con questa idea di ritmo molto cadenziato, questa atmosfera che sembra quasi un cantato in galleria, sì. Non lo so se si rende l'idea, sì. Con questi riverberi un po' strani. E... Ma quando ti ha proposto questo, Francesco, cosa hai detto, Riccardo? No, all'inizio ero un po' perplesso, un po' perplesso. Un po' così. Ho ascoltato troppo Bob Marley? No, scherzi a parte. Ovviamente, come ogni singolo pezzo che abbiamo registrato e come ogni pezzo che suoniamo dal vivo, c'è sempre il momento della decisione di cambiarlo, o da parte sua o da parte mia, e si mette al vaglio, no? E quindi all'inizio si è sempre un po' proviamo, vediamo cosa salta fuori. Poi senti che gira e dici: porco Giuda, che bella idea che hai avuto. Allora la mettiamo in ordine, la mettiamo proprio in pratica. Esatto, esatto. La facciamo, la allarghiamo. Infatti, questo credo sia uno dei pezzi che ha richiesto più tempo, no, nel disco. Cosa dici, Francesco? Sì, perché l'arrangiamento, cioè il brano originale, insomma, la versione del film è proprio country. Sì, no? Proprio country secco, sì. E in quel periodo là avevo ripreso in mano del materiale dei Portis, non so se te li ricordi, era un gruppo inglese, sì, degli anni 90, certo, che facevano sta roba un po' strana. Folk country, proprio un po' di tutto. No, facevano sì, il genere l'hanno soprannominato trip hop. Mm. In realtà questo pezzo ha molto poco del trip hop, sì, però, esatto, però dammi il loro disco più famoso, i Portis. Dammi, no? Sì, adesso i titoli non li ricordo. Mi ricordo che erano nella colonna sonora di un bellissimo film di Bertolucci, Io ballo da solo. Sì, vero, vero, esattamente. Ok. Quindi ho riascoltato sto pezzo e mi ha dato l'input un po' per riarrangiarlo in maniera diversa. Poi ho sentito delle versioni, insomma, su YouTube di un paio di chitarristi che la riarrangiavano, e da lì, insomma, ne è nato. Sai, uno parte da un'idea, poi non viene mai fuori quello che pensava. Viene fuori sempre una cosa diversa. E da lì, insomma, è uscita la nostra versione un po' rivista, molto meno country di prima. Dobbiamo sottolineare che il disco è autoprodotto assolutamente da voi, sì, totalmente da voi, registrato totalmente da voi, esatto. Avete fatto tutto praticamente. Sì. Sì, sì, sì, è stato proprio... È stata una faticaccia, sì. Oh, sì. Enorme. Sì, ricorderò sempre un lunedì sera, dopo aver passato la giornata a registrare, che siamo andati a suonare in un locale, e per la strada lui guidava e io ero in delirio da stanchezza, cioè speravo di quelle freddure che a un certo punto pensavo mi abbandonasse in autostrada legato ad un guardrail, e avrebbe fatto benissimo. Quindi sì, no, è proprio stato un... Allora, seriamente parlando, è stato faticosissimo, e davvero ci sono stati dei momenti in cui ci guardavamo e non ci potevamo, tra virgolette, vedere, nel senso che ha richiesto del tempo, ha richiesto dei mesi, e non c'è niente di male, cioè io so di gente che entra in studio e in due giorni fa tutto, e fa bei lavori, alcuni non li fanno così belli, E so di gente che entra in studio e ne esce con un disco dopo 5 anni e parlo di gente molto, molto famosa. Noi ci abbiamo messo qualche mese perché appunto non volevamo fare, ok, entriamo in studio, siamo in due, suoniamo alla Sonny Terry e Brownie McGee, quindi alla vecchia maniera, e vediamo cosa viene fuori. Abbiamo voluto fare un disco che fosse un attimino curato sotto suoni, idee, arrangiamenti e anche selezione dei pezzi, no? Ci vuole tempo. Ci vuole tempo, ci vuole energia, ci vuole fatica. Vale la pena? Sì. Siamo folli a farlo? Sì. È chiaro. Però è giusto che sia così. Cioè, quando un'idea si ha, si deve portare avanti fino alla fine. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Abbiamo voluto fermarci anche molto sul mixaggio che ha curato Francesco. Stando molto attenti a quello che ne usciva e fino all'ultimo dettaglio. Esattamente. Esattamente. Questo è tutto fatto tutto da noi. Assolutamente. E siamo orgogliosi di orgogliosi di questa cosa qui. Benissimo. 22, 23, 21. Adesso proporrei di fare un altro pezzo live. Che cosa suonate? They Are Red Hot. Oh sì, The Red Hot, Robert Johnson. Ah, un classico, di veduto corretto, dai, The Surfbirds. All right. Ok. Hot Miles and Red Hot, yeah, Chicago for sale. Hot Miles and Red Hot, yeah, Chicago for sale. I say, I got a girl, she's long and tall, she sleeps in a kitchen with her feet in a hole. Hot Miles and Red Hot, yeah, Chicago for sale, I'm in, yeah, she got it for sale. Hot Miles and Red Hot, yeah, she got it for sale. Hot Miles and Red Hot, yeah, she got it for sale. I got two for an eagle, got four for a dime. Wouldn't say anymore, but it ain't none of mine. Hot Miles and Red Hot, yeah, she got it for sale, I'm in. Yeah, she got it for sale. Mm-hmm. Hot Miles and Red Hot, yeah, she got it for sale. Ooh, Charlie Red Hot, yeah, she got it for sale. I got a letter from the girl in the room. She got something good, gonna bring it home soon. Hot Miles and Red Hot, yeah, she got for sale, I'm in. Yeah, she got it for sale. Don't you mess with my tomatoes, I swear it's gonna be bad. Don't you mess with my tomatoes, I swear it's gonna be bad. I'm gonna upset your back and put your kitty to sleep. I'm gonna break away, you leave her there, you hard to beat. Hot Miles and Red Hot, yeah, she got for sale, I'm in. Yeah, she got it for sale. Hot Miles and Red Hot, yeah, she got for sale. Hot Miles and Red Hot, yeah, she got for sale. I say, I got a girl, so she long and tall. She sleeps in a kitchen with a feet in a hole. Hot Miles and Red Hot, yeah, she got for sale, I'm in. Yeah, she got it for sale, I said. Yeah, she got it for sale. They are red hot. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Riccardo Grosso alla voce e all'armonica e Francesco Greggio alla chitarra e al food stomp. Che cos'è il food stomp per cui sono gli addetti ai lavori, Francesco? È una scatoletta di legno in cui praticamente la utilizzi per battere il tempo con il piede. È una sorta di cassa alla batteria o di simulazione di un vecchio parquet in legno, su cui tu sei uno specialista di questa scatoletta, praticamente. Sì, usi spesso e volentieri. Esatto. Ti hanno etichettato. Bello, non è mica una brutta etichetta questa. No. Fa parte, esattamente. È un aiuto per tenere il tempo, sai, in due non è facile. Certo, e quindi ti dà un aiuto sulle frequenze basse che ti fa suonare meglio, ecco, dai. Ma il tempo l'avete tenuto benissimo in questo pezzo, molto vivace, molto accattivante, e dobbiamo ringraziare per questo il nostro direttore artistico Alberto Prisco, che vi ha voluti qua stasera, e salutiamo e ringraziamo anche la Nicoletta, che si sente sempre, spesso e volentieri. Allora, The Surf Birds, questo a me, mi avevi detto a microfono spento che quanti nomi hai cercato di trovare per dare l'aggancio del nome giusto? Ne avremmo pensati 47, ecco, voglio perfetto. Dire. Perfetto. E poi un'ombra, come si dice dalle mie parti, un bicchiere di vino, due bicchieri di vino, è saltato fuori questo nome e mi ha detto ok, va bene. Perché o diventiamo due alcolisti a cercare il nome, oppure meglio così. No, scherzi a parte, è saltato fuori, ci sembrava suonasse bene. Ma suona benissimo, e via. Da surf, da l'America, dall'idea dell'America, della California, del sole, perché il blues non è buio, è no, il sole, anzi, assolutamente. Anzi, è quotidianità in realtà, no? Parla di cose che succedono, quindi succedono le cose brutte, ma per fortuna succedono le cose belle. Esattamente. Quindi si ferma un fotogramma, no? In una canzone. Ok, sta succedendo questo, lo fermiamo e lo suoniamo. Sì, quindi pensare al blues come musica triste, no. Musica di depressi, no, assolutamente. Anche se c'è l'icona, c'è quell'immagine della depressione americana, eccetera. Più che la depressione, più che il blues è il cantautorato lobo praticamente nella depressione americana, è un po' diverso. Esatto. Anche se il blues e il lobo sono proprio collegati. Sì, perché comunque lobo è il vagabondo, no? il musicista vagabondo. E in quegli anni lì giravi per qualsiasi tipo di paese, città, villaggio, e bene o male il blues lo suonavano tutti, perché è il nostro liscio. È vero, hai detto una cosa giusta, è il nostro liscio, è una canto musica popolare. Cioè, è assolutamente popolare. Si trovavano finito il lavoro nelle piantagioni, esatto, a suonare questi shuffle, questi balli, chitarra, washboard, che era l'asse per lavare, suonata con i ditali, ma proprio per come base ritmica, e la gente ballava, quindi era blues, era festa. Io ricordo, a proposito di questo strumento che tu hai citato, ricordo Mango Jerry di Summertime con Mango Jerry, ti ricordi? Mm-hmm. In The Summertime di Mango Jerry suonavano proprio con questo strumento. Esatto. È stato sdoganato all'epoca questo strumento, grande successo mondiale, poi sono spariti i Mango Jerry, ma hanno fatto delle cose molto interessanti. Assolutamente, sì, anche se tutti ricordano solo quel pezzo là. Purtroppo è il singolo, no? È il singolo che purtroppo qualche volta è molto pesante, una cappa che non si riesce a togliersi. E 160 date in un anno, quante sono? Come mai tutte queste frenesia del suono? Bello da suonare dappertutto, da cali piccoli, grandi, sì, belli, ovunque, di tutto. Ovunque. Per cui sì, non siamo razzisti dal punto di vista dei locali, no, mettiamolo così, cioè, no, nel senso, è sempre bello andare a suonare dove c'è una realtà musicale. Però capita anche, e non così raramente, di suonare anche magari in posti che vogliono fare l'evento XY o la cena a tema. Ho capito. Venite a suonare. Certo, noi suoniamo, e la cosa bella è quando vedi la gente che mentre sta mangiando e tu stai suonando, magari si ferma ti guarda sente. E ascolta. Lì vuol dire che arrivi in qualche modo. Il messaggio è arrivato. Non capita spesso, esatto. Qualche volta non capita, però sì, si può provare. Ti dico, ultimamente per fortuna capita. Da un punto di vista della gente che ascolta, sto vedendo una forte inversione di tendenza, cioè preferiscono ritornare a generi più diretti, perlomeno, no? Senza tanti fronzoli, e capire il senso del pezzo piuttosto che avere lo spettacolone luci e suoni, che però alla fine musicalmente magari non ti lascia molto. Certo. Prima abbiamo sentito Robert Johnson. Mm-hmm. Tutti sanno, almeno non proprio gli addetti ai lavori, ma maggior parte di chi ama la musica sa che 29 pezzi di Robert Johnson hanno fatto la storia del blues. Ma sì, non soltanto la storia del blues in certi momenti. No, secondo me Robert Johnson è la musica come la conosciamo anche oggi, perché sui suoi pezzi e su di lui poi si è costruito tutto il resto, sì, no? Una leggenda. È proprio una leggenda, morto tra l'altro a 27 anni, giovanissimo. Sì, vero. Ha registrato questi 29 pezzi, uno più bello dell'altro, chitarra, voce e basta. E da lì poi è nato il Texas Blues, il Delta Blues, il Chicago Blues, poi con gli anni il rock blues, il funk blues, però la matrice è lì, cioè il primo lui. Mattone è lui. È sempre lui. È una cosa pazzesca. È stato facile, Francesco, scegliere tra i 29 pezzi questo pezzo di Robert Johnson? Ma sì, perché adoro determinate versioni. Mm. Una bellissima che ha fatto ultimamente Clapton. Clapton è sempre un maestro. Si ha fatto un disco dedicato a lui. Esatto, proprio quello. Che mi sembra la suoni sia in acustico che con la band. Con la band è strepitosa, Steve Gadd alla batteria. E dopo un gruppo che a me è sempre piaciuto molto, però i vecchi dischi, insomma, i dischi di 15 anni fa, i Red Hot Chili Peppers. Ah. Adesso gli ultimi non ti piacciono, se n'è andato Jack Frusciante, sì, intanto, ha lasciato il gruppo stavolta veramente. No, a me innanzitutto io sono proprio fan di Frusciante, il disco con l'altro chitarrista, quello di James Addiction, mi piaceva di meno. Comunque il disco Blood Sugar Sex Magic, c'era appunto una versione di questo pezzo qui, tipo come Ghost Tract. Suonata velocissima, tra l'altro registrata tipo in giardino, perché c'è un The Making Of del disco, tutto un bellissimo DVD dove si vedono tutte le riprese e si vede appunto che questo pezzo lo suonano in giardino di notte in sta villa della California. E quindi quel disco per me è stato incredibile, quello di Red Hot Chili Peppers, e poi Clapton, sono un grande fan e quella versione mi è piaciuta molto, ho detto facciamo quello. I Red Hot hanno questa caratteristica, hanno inventato un genere, una commistione di generi, hanno messo un po' tutto assieme, quegli anni... hanno tritato le cose. Infatti, è proprio quello che mi piace, nella musica cercare di non seguire una sola linea guida, di non seguire un solo genere, ma cercare di mischiare tutto. Esattamente. Spesso vieni criticato per questo, però sono i propri gusti e uno cerca di metterli insieme e fonderli in un'unica miscela, insomma. E Jack se n'è andato, secondo voi era il creativo dei Red? Sì, il creativo un po' pazzo, è un creativo pazzo, perché ha distrutto, ha ripreso, messo le cose a posto, poi se n'è andato, ritornato. Ma diciamo che erano un'unione, una commistione di stili molto diversi, il funk del batterista e il bassista appassionati dei Meters, che tra l'altro insomma strapiacciono anche a noi, e il chitarrista Frusciante appassionato di Hendrix, sì, a manetta, assolutamente Hendrixiano. e quindi si è creata sta cosa, in realtà quello è costituito Crossroad, hanno inventato, sì, quello, sì, un crossover sostanzialmente, anche crossover, esatto, sì. Un po' di tutto hanno fatto, quelli erano anni mitici, insomma, un po' per il grunge, un po' per questo genere qua, tra i Faith No More, loro, eccetera eccetera, insomma. A me piace dito il disco psichedelico loro. Stai parlando dei Red Hot Chili Peppers? Dei Red Hot, non l'ultimo, quello di qualche anno fa, quando c'erano i singoli, i grandi singoli psichedelici, così chiamato psichedelico. Ah, okay, okay. C'era Jack Frusciante, sì, per quella, sì, volta, sì, poi se n'è andato un altro. Non c'è stato per un disco e poi è tornato, sì, è tornato. Adesso se n'è andato definitivamente. Però è successo, l'avevamo avuto lo stesso con l'ultimo. Sì, però... Però non è più come una volta. Non hanno più il mordente, non hanno più quella cosa lì. Adesso sono un po' più venduti al denaro. Al denaro, vabbè. Ok, non so cosa abbiamo ancora, qualche pezzo in scaletta. Sì, ne abbiamo uno. Che traccia è, Michele? La numero 9, ecco, sentiamola. Oklahoma Home. La sentiamo quella, là. Ne abbiamo parlato prima, la sentiamo adesso, ok. When they opened up the strip, I was young and full of zip. I want some place to call my home. And so I met the rays and they sell me on this place. And I'll settle down along the summer road. It blown away, it blown away. My Oklahoma home blown away. Once it looked so green and fair when I built my shiny tail. My Oklahoma home tore away. And I planted weeds and oats, got some chickens and some shorts. Came to have some M&Ms to fit my face. Got a mule to pull the plow, got an old still got a fancy mortgage on this place. It's blown away, blown away, it's blown away, blown away. All the crops that I planted, I'm blown away. Well, you can grow any grain if you ain't got any rain. Every plane except my mortgage blown away. Once it looked so green and fair when I built my shiny tail, I figured out that I was set for life. I put on my Sunday best with my fancy skello vest, and I went in town to pick me up a wife. She blown away, blown away, she blown away, blown away. My Oklahoma one blown away. Mr. Ezra bent to kiss her, she was big about a twist. My Oklahoma one blown away. Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Abbiamo ascoltato questo pezzo, allora questo a me è diventato un pezzo famoso, grazie, abbiamo già parlato del boss, il boss ha sdoganato tante cose, ha sdoganato, capite, sì, non occorreva, però il pezzo sì, ha dato una spinta, possiamo dire. Esatto, questo. Esatto, un mainstream. È un no? Mainstream, esattamente, è una cosa molto interessante, perché il boss è il boss. Assolutamente. Adesso verrà a Trieste l'anno prossimo con questo concerto di cui se ne parla già tanto. Purtroppo parlavamo a microfono spento, non c'è più Credence. Credence era una parte essenziale di una band simile. Oh sì, sì, sì, un musicistone come non ne fanno più. Anche dal punto di vista fisico uno, dava un certo riscontro visivo. Un armadio a muro. Un armadio. E avete avuto una band sempre di grandissimi talenti, eh? Sì, assolutamente. La Steve Van Zandt, un'altra bestiona, come si può sentire. Sì. Grande, immenso anche quello. È una. Cioè, ha saputo scegliersi bene, no? I collaboratori. E secondo me creava anche un. E crea un. Almeno a vedersi, un feeling proprio quasi familiare, no? Esatto, sì, un feeling, crea una cosa irripetibile, qualcuno dice. Quando suonò, lui ha suonato anche 4 ore consecutive, mica una vita. Anche se è venuto in Italia quel giorno, ti ricordi, ha dovuto sospendere, c'è stato il diverbio della mezz'ora in più dopo la mezzanotte, è stata una polemica che stavolta finalmente è sopita e riprenderà quei 20 minuti che aveva perso all'epoca, ecco. Diceva. Certo che polemizzare sul fatto che il boss è superato a mezzanotte, non sì, si che può cioè, il boss, ho si il fa. Boss che mi suona di fianco a casa e mi lamento se smette 20 minuti prima, dopo, cioè se fa 3 ore e 40 minuti mi lamento, deve farne 4 se ce l'ho di fianco a casa. Boss, cioè, non si può parlare del boss in questi giorni. No, cioè, hai praticamente uno dei migliori musicisti in attività e di un'importanza storica straordinaria, gli dici hai sforato di 20 minuti? No, non si fa. Assolutamente no. Adesso noi non sforiamo, andiamo verso mezzanotte, ecco. Verso le 23:40, se abbiamo ancora qualcosa da far sentire ai nostri ascoltatori. Che cosa, Francesco e Riccardo, adesso, in questo momento? Potremmo fare Bad Things. Ah, ok. Sì, facciamo quello. Adesso. Facciamo questo. Facciamo. Adesso accordiamo. When you came in, the air went out. And every shadow's all filled up with doubt. I don't know who you think you are, but before night is through, I wanna do bad things with you. I'm the kind who sit up in his room, heart sick and eyes filled up with blue. I don't know what you done to me, but I know this much is true. I wanna do bad things with you. Shadows there, all filled up with doubt. I don't know who you think you are, but before night is through, I wanna do bad things with you. One more time. I don't know what you done to me, but I know this much is true. I wanna do bad things with you. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ecco, adesso parliamo del musicista che ha scritto questo pezzo, che è interpretato benissimo dai Surfbirds in questo momento, 23:45. È Everett, praticamente, che è un abbastanza contemporaneo del 72, quindi non è, non è proprio anziano, no, assolutamente. È diventato famoso con questo pezzo perché era sigla di un serial americano. True Blood. Esattamente. E in sostanza, perché? Perché a parte la colonna sonora di quel serial girato nei dintorni di New Orleans, quindi è strepitosa, nel senso che ha dentro tutti i successi dagli anni 50 ad oggi del blues, del rhythm and blues e della musica della Louisiana. Everett è di Nashville, Tennessee. E come mai un suo brano è diventato sigla di questo serial? Perché il produttore l'ha scaricato da iTunes. Ah, questo è il motivo. e lo ha proiettato poi nella popolarità, no? Sì, nell'Olimpo, sì. Esatto, lui scrive dei brani di blues contemporaneo, proprio quello influenzato dal rock, dal pop, influenzato in maniera intelligente, mantenendo sempre una vena bluesy molto, molto importante. Quindi sì, è interessante sapere che insomma iTunes può aiutare anche per questo. Sì, l'etichetta, il pezzo è stato scritto nel 2000, cioè è stato inciso nel 2007 praticamente. L'etichetta era la Phantom Records, scusate. Sì. E sì, ha avuto successo grazie a questo e poi ha fatto altre cose. Poi ha fatto altre cose, ha fatto due album credo, o due o tre al massimo, uno di sicuro acustico con due chitarre dove ha preso delle cose elettriche sue e le ha riarrangiate. Certo. E tutto poi fatto in maniera molto molto molto intelligente. Adesso fa dei tour in Europa e Stati Uniti in maniera intensa. Basta solo un pezzo per diventare famoso, allora, Riccardo? Forse sì, a questo punto. Capitare. Basta che sia un buon pezzo, e questo lo è, cioè lo è davvero. Assolutamente. Ok, 23:47, abbiamo ancora tempo. Un altro pezzo live, dai, che cosa adesso? Avevate detto forse John Fogerty si materializza oppure no? Forse. Quanto tempo? Abbiamo due pezzi? Ma fino a mezzanotte abbiamo tempo, adesso vediamo, dai. Cosa facciamo? Okay. Facciamo John Fogerty? Proviamo. Ok, vai io. Ok. Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Ok, ok, abbiamo sentito. Cioè, loro erano un po' incerti, ragazzi, cari ascoltatori, perché riprendiamo il pezzo di Creedence. Sì, siamo ritornati indietro all'epoca dei grandi album dei Creedence. Creedence è un gruppo straordinario, con pezzi che sembrano semplici, ma non è proprio. Esatto. Non siano molto semplici, vero Francesco? Esatto. Un po' complicati. Sono proprio la loro semplicità che ne fa la loro difficoltà. Esattamente. Due accordi con una splendida melodia, se non li suoni con il tiro giusto, sei fregato. Esattamente. E loro hanno fatto poco arrangiamento e molta sostanza. E John Fogerty è un autore straordinario, delle cose molto, molto interessanti. È un attore da classifica, visto che Pendulum e tutti i loro album sono stati in classifica per un sacco di tempo. In Italia erano amatissimi. Sì. Tutto il mondo. Sì. È stata una cosa molto positiva di percorrere le gesta musicali dei Creedence, un gruppo veramente fortissimo. Ok, 23:50. Adesso diciamo una cosa. Dove possiamo trovare il vostro disco? Come possiamo avere innanzitutto i concerti? Ma citiamo il vostro sito. Dai. Allora, a parte appunto i concerti, noi abbiamo un... ci trovate su Facebook, The Surfbird, scritto Surfbirds. Esattamente. E sul MySpace, myspace.com/TheSurfbirds, scritto sempre THE Surfbirds. Oppure su iTunes ci sono i pezzi in vendita e anche su CD Baby, quindi www.cdbaby, come bambino in inglese.com, /CD/TheSurfbirds. Perfetto. Se volete una copia fisica e magari non riuscite a venire ai concerti, su Facebook basta scriverci, noi vediamo e insomma si manda il disco. Benissimo, quindi per poter avere il disco si può fare così. Velocemente, tu hai anche un progetto parallelo, mi pare? Sì, si chiama Francesco Gregia Sucker Punch, facciamo sempre più o meno blues, soltanto che più rock, i brani che chiaramente sono originali, scritti da me, da un cantante americano che si chiama Chris Boulet. E niente, mi trovate per quanto riguarda il mio progetto su francescogreggio.com. Perfetto. Tu anche dicevi che hai una data forse di un progetto parallelo che una volta ogni tanto. Sì, è un progetto, uno dei miei progetti paralleli, nel senso che ovviamente abbiamo tante cose in pentola, e è con Ricky Bizzarro di Radio Fiera, Radio Fiera. E Edu Ebling, contrabbassista brasiliano che vive qui in Italia, vive a Mestre, che suona con Lavanoni, con Paoli, eccetera. Si chiama Broken Poets, The Other Side of Songwriting, quindi l'altra parte del songwriting. Cosa vuol dire? Prendiamo gli artisti maledetti, quindi appunto Waits, Lou Reed, Johnny Cash e Bob Dylan, e li riarrangiamo, li abbiamo riarrangiati in chiave trio, armonica, voce chitarra e contrabbasso, una cosa un po' particolare. Ci divertiamo tantissimo perché sono anche lì pezzi che bene o male si sentono nostri, no? Certo. E quindi c'è questa cosa che suonerò domani sera a Vittorio Veneto con questo, con progetto, questo progetto, dove poi siamo nati voi due all'inizio, no, con questo trio. Torniamo alle origini. Esatto. E voi come duo che altre date avete? C'è la Vigilia Blues a Susegana al Bronzer, quindi sabato prossimo. Questo di questa settimana, ormai Natale, sì, non ci accorgiamo, 24 festeggiate il Natale con il blues. Esatto. E poi il 30 sempre di questo mese a Feltre al Banda Larga. Poi da gennaio abbiamo qualcosa verso metà gennaio, eccetera, però sul MySpace ci sono tutte le date che abbiamo insieme. Questo è il primo album come duo praticamente? Sì. O avete fatto qualche EP precedente, qualcosa? Niente. No, questo è stato proprio il primo colpo sparato, come si dice, no? L'avevamo pensato appunto come EP, come demo, poi abbiamo detto ok, si è allargato, è andato appunto in un'altra direzione. Un'ottima direzione. E meno male forse, no? Sì, perché certo, comunque siamo felici del parto che abbiamo... Che l'avete proposto in tutte queste date praticamente. Sì. È sempre disponibile a ogni data, per cui insomma. E c'è qualcosa già previsto per nuovo, qualche cosa nel cassetto pronta per allargare l'orizzonte, oppure continuerete a fare una rivisitazione dei pezzi blues? Ne parlavamo, penso, andando a suonare. No, l'idea sarebbe quella di chiaramente proporre anche del repertorio originale. Vostro, chiaramente, esatto, sì, nostro. Chiaramente il progetto ha per adesso insomma un anno di vita, quindi è relativamente giovane. Però 160 date. Sì, 160 date non poco. In un anno, però insomma, dobbiamo dirle ste robe. Chiaramente siamo riusciti a coniugare l'aspetto live e l'aspetto discografico. Man mano che andremo avanti penseremo anche a quello. Abbiamo già qualcosa in pentola che bolle. Però, che bolle. Sempre è poco. Sempre dal punto di vista acustico, leggermente elettrico. No, da sì, dire. L'idea è comunque mantenere la nostra faccia acustica. Insomma, non cambierei più di troppo. L'atmosfera deve essere questa. Benissimo. E purtroppo abbiamo finito questa cavalcata, sono 23.55, sono stato molto contento di avervi ospitato stasera, avete parlato di blues e non solo di blues e questo è molto positivo, molto interessante. Grazie dell'ospitalità. Grazie a voi. Grazie mille. Concludiamo con un pezzo live, come è la nostra consuetudine. Che cosa? Taj Mahal, Corina. Facciamo okay. Una canzone d'amore. Ah, bene. Scritta da Taj Mahal, che è lo stesso che ha scritto Chicole Kelly, il titolo di testa dei Blues Brothers. Perfetto. Okay. Grazie a Michele Tosò. Buonanotte a tutti e ci sentiamo domani. Bye bye. Ok. I got a bird, wanna whistle. I got a bird, got a bird, he will sing. Oh baby, got a bird, I got a bird, he will sing. Oh, without my Corina, sure don't mean anything. I love you. Baby, tell the world, oh, tell the world I do. Oh, baby, tell the world, oh, tell the world I do. There ain't no woman on foreign countries who treat me, babe, like the way you do. Call your name. For a call, honey, for a call your name. I mess with my Corina. People, you see, this good man getting insane.